gli occhi, fumo questa Oggi Kush, marijuana. Mamma mia che buona. Cazzo se non faccio tagli a scuola. Ah no, è vero, io a scuola fra non ci vado. Allora me ne sto qua cillato tra i cartoni di pizza che ho ordinato. Con la stanza esplosa sembra molti Python. E con questa c'è lei. Ci ho scopato tipo 6 volte in 3 ore, mi è sembrato un rape. Dorme tranquilla, tra un porta cenere e la birra. Al tanga che brilla, ha un culo grosso, baby un caterpillar. Non si sveglia mai neanche col ciel che squilla. Io ne giro una, no tabacco. Tosse forte, contrapasso. Sto da solo, non la passo. Guardo il tetto, penso cosa cazzo. Mi sa che ci perdiamo anche oggi. Fai rewind agli orologi. Già li sento che mi dicono che dico sempre le stesse cose però. Io fumo ancora questa qua. Io fumo ancora questa qua. Io fumo ancora questa qua. Io fumo ancora questa qua. Da un colpo di tosse una telefonata. Come passo la giornata. Io fumo ancora questa qua. Sì, fumo ancora questa. Guardo avanti, Michael Jay. Sento Purple Rain. Fumo Purple Legs. Prenderebbe bene anche Kurt Cobain. Frate, fumo quando fuori piove o quando fuori c'è il sole. Da solo con le persone, pure in banco stazione. Fumo estrazione, solo s'attiva attenzione. O vado in disattivazione. Salotto di casa sembra la stazione. Dai se non fumi bro cambia canzone. Perché parlo di questo sulla traccia. Per la gente che viaggia. Sto così fatto che l'iPhone non mi riconosce la faccia. Oh mamma, non mi stressare adesso col drama. Oppure ti impicco con la collana. Mi sa ci perdiamo anche oggi. Io vivo la vita ma non posso farci niente. Se alla fine poi succede sempre che. Io fumo ancora questa qua. Io fumo ancora questa qua. Io fumo ancora questa qua. Io fumo ancora questa qua. Da un colpo di tosse una telefonata. Come passo la giornata. Io fumo ancora questa qua. Sì, fumo ancora questa qua.